Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Quando i secondi sono i primi. Buongiorno a voi da Nicoletta Carbone. Lancio subito il tema della puntata di oggi a voi amici che vi considerate eterni secondi, perché oggi cercheremo di capire insieme il valore, passatemi il termine, della secondità. E anche perché spesso i secondi stanno davanti ai primi, e non è solo un modo di dire. Non ci credete? Lo immaginavo. Allora, prima di presentarvi i nostri ospiti, vi faccio ascoltare la voce di una seconda classificata davvero speciale. Da tanta bellezza che il suo diamante è, l'abbraccerà, rallegrerà, solleverà, se mai cadrà, difenderà, sempre sarà, diamante lei, e luce lui, l'abbraccerà, rallegrerà, solleverà, se piangerà, difenderà, perdonerà, diamante lei, e sì, luce lui. L'avete certamente riconosciuta, e lei è la cantante del momento, arrivata seconda ad Amici. Il suo CD è rimbalzato ai primi posti delle classifiche di vendita, sbaragliando tutti i vincitori. Sta davanti al vincitore di Sanremo, ma sta abbondantemente davanti, almeno nelle preferenze, nelle vendite, al vincitore della competizione che l'ha eletta seconda. Buongiorno, anzi ciao. Buongiorno. E benvenuta ad Annalisa. Grazie. Annalisa, quanto sei bella, eh? Posso dirtelo, di cuore, eh? Grazie. Sì, questo. Però tu ci hai sedotto e ci hai affascinato, perché abbiamo piano piano cercato di saperne, capirne un pochino di più di chi sei tu, di chi è la persona Annalisa che si nasconde dietro al personaggio Annalisa. Adesso è diventato un vero personaggione, e abbiamo scoperto delle cose molto molto interessanti su di te che sveleremo piano piano, cammin facendo, nel corso della trasmissione. Ma intanto, per cominciare, scoprire di essere arrivati ad un passo dal podio, essere lì, no? Dire ce l'ho fatta, tocca a me, di essere lì sul gradino appena più basso, che emozioni lascia? Amaro in bocca, oppure una, come direbbero gli psicologi, una più sana consapevolezza di sé? Ma allora, un po' di delusione c'è stata, perché comunque arrivi fino in fondo, sei lì che aspetti di sapere chi ha vinto, chi non ha vinto, quindi comunque sì. Però io mi aspettavo molto meno, non mi aspettavo che ci fosse così poco scarto, quindi sono molto contenta lo stesso, anche perché diciamo che c'è... Ho preso il premio della critica che mi ha tirato molto sul morale, quindi va bene così. Io voglio salutare anche Alberto Pellai, che è qui in studio con noi. Ciao Alberto. Ciao Nicoletta, ciao Annalisa, buongiorno a tutti. Alberto, vantaggi e svantaggi del secondo, dove pende di più la bilancia secondo te? Ma io non lo so, prova a pensare ai primi della classe quando... Ma sapevo che mi che puntavi il dito su di loro. Tu non sei mai stata una prima della classe? No, neanche la faccia. E no? Si vede, infatti dico che quello secondo me è uno straordinario vantaggio, non dovere avere addosso... tutta la responsabilità del vincitore. Secondo me apre straordinari campi di libertà, di creatività, molta più possibilità di esplorare realmente chi sei senza dover aderire sempre a quell'immagine, a quella faccia della medaglia, che è il lato A. Ti puoi permettere di avere anche un lato B. Questa è una bella chance. Allora, direi che è arrivato il momento di lanciare un po' la sfida ai nostri ascoltatori. Alberto. Sì, io tra l'altro poi c'è proprio una sorpresa, perché Annalisa metterà a disposizione delle storie più belle il suo CD autografato direttamente da lei. E oggi vogliamo proprio ascoltare le storie e in realtà leggere le storie, perché proprio perché la sfida è molto complessa ci aspettiamo email da voi e le vostre storie di secondità. Provate a spiegarci quella volta che eravate un passo dal diventare il numero uno e invece siete qualcosa. Arrivati al numero due. Diteci cosa vi è successo, come l'avete vissuta e soprattutto se avete scoperto che c'era un valore anche nel non essere arrivati primi. Tra l'altro, Annalisa, tu hai sempre mantenuto un profilo da seconda della classe, non mai da prima. Alberto ci ha detto, l'ha detto anche a me, no? Tu non hai la faccia da prima della classe, riservata, tranquilla, mai competitiva. Ma tu così ci sei nata oppure sei diventata? No, io sono sempre stata così, comunque la timidezza di fondo ce l'ho sempre avuta. Quando ero un po' più piccola ero un po' più incosciente e quindi mi lanciavo di più. Poi crescendo ho imparato magari a pensare, io rifletto moltissimo quando parlo, quindi insomma ho imparato a valutare meglio le situazioni e a pensare prima di aprire la bocca ancora di più, quindi... Comunque devo dirti una cosa, in realtà io sono stata la prima della classe. Vedi Alberto, che tu non l'avresti mai beccata, sei stata la prima della classe. Sì, sì, sì. E sì. A te com'è andata nell'esperienza da prima della classe? Cioè una... Male. Mi è andata male. Quando andavo a scuola, un'esperienza come un'altra, anche perché comunque l'atteggiamento... Io non ho mai avuto un atteggiamento... da tipo da secchiona, spocchioso, assolutamente no, quindi lì era tutto tranquillissimo. Invece l'essere prima della classe, nella classe quella di amici, mi ha penalizzato, perché poi le aspettative, come dicevi tu prima, sono diventano troppo altissime. Alte. E quindi non basta mai. Si nasce in un modo, poi cammin facendo si cambia. E a proposito di nascita, ho in linea con me il professor Giampaolo Donzelli, che è ordinario di neonatologia all'Università di Firenze e presidente della Società Italiana di Medicina Perinatale. Professore, buongiorno. Buongiorno a lei e agli ascoltatori e alle ascoltatrici. Grazie professore, io ho scoperto che in natura c'è un caso eclatante di secondi che arrivano prima di tutti gli altri e so che lei può aiutarmi a spiegare il perché. Parliamo dei gemelli. Sì, ora sui gemelli si dicono un sacco di cose. Sì, tante. E comunque non è che ci sia un gemello più giovane o uno meno giovane. Se ad esempio un cittadino va al proprio comune e chiede il suo estratto di nascita oppure il certificato di assistenza al parto, come oggi si chiama, ha chiaramente la valutazione nel caso di gravidanza gemellare chi è nato prima e chi è nato dopo. Però se per nascita intendiamo il concepimento, sì, lì non c'è dato di sapere, perché nei gemelli monozigoti, cioè i cosiddetti identici, per capirci, una singola cellula uovo è fecondata da un singolo spermatozoo, quindi sono concepiti insieme. Sì. Nei gemelli dizigoti, quelli che derivano da due cellule uovo fecondate da due diversi spermatozoi, non c'è dato di sapere chi è fecondato per primo rispetto a chi è fecondato per secondo, e non è detto che chi nasce per prima sia quello che è stato fecondato per primo. Come si pensa, Alberto? Quindi in realtà la distinzione che si fa tra primo e secondo è fondamentalmente a fini legali o per l'eredità? Ai fini veramente anagrafici, cioè di cronistoria personale, ma rispetto a una cronistoria biologica quello non lo sappiamo. Sappiamo comunque che chi nasce per primo generalmente ha un peso maggiore rispetto a chi nasce per secondo. Ecco, vedi che c'è un po' di differenza, esiste. Ma tra l'altro, professore, i parti gemellari, parliamo di gemelli, sono sempre più frequenti. Ne avete parlato anche voi al congresso della Società Italiana di Medicina Perinatale, che si è svolto qualche settimana fa a Firenze. Ci aiuta un po' a leggere questo dato? È una buona notizia, ma come suggeriva Alberto, c'è sempre anche l'altro lato della medaglia. La notizia buona, diciamo, per tutte le coppie, in particolare quella donna che vuole avere un figlio naturale, oggi la medicina l'aiuta con la procreazione medicalmente assistita o la fecondazione artificiale, però questo comporta spesso una gravidanza gemellare, e grazie a queste tecniche avanzate della medicina nel nostro paese i parti gemellari sono aumentati del 47% in pochi anni e i parti plurigemellari, cioè con più bimbi, sono aumentati del 370%. e ogni anno in Italia, secondo l'Istat, abbiamo circa 5.600 gravidanze gemellari e 280 gravidanze trigemine, cioè con tre neonati. E quindi da questo punto di vista nasce il problema che quasi sempre sono nati prematuri e di basso peso, e quindi si apre lo scenario, certo, che è, secondo le scale appunto dei grigi, può essere più o meno vicino a problematiche gravi o più o meno a problematiche lievi a seconda dei casi. Però lo scenario, chiaramente, la cosiddetta faccia della medaglia a cui fate riferimento esiste ed è prevalentemente questa. Professore, io la ringrazio per essere stato con noi, la saluto e le auguro una buonissima giornata. Grazie e buon proseguimento. E noi torniamo. Hai sentito quanti gemelli, Annalisa? Sì. Sconvolgente questo. Tantissimi, Alberto. Io, tutti questi bambini. Nonostante io ho la mia bella collezione di figli, 4, sai che non so se ce l'avrei fatta a fare il papà di 2 gemelli, nel senso che me li immagino come un'impresa molto faticosa. Annalisa, voi avete gemelli in famiglia? No, nessuno. Ecco, quindi è una, è fratelli, sorelle, però. Niente, figlia unica. Tu sei figlia unica, quindi sei arrivata prima e sei restata prima, almeno in casa. Sì, sì, sì, beh, almeno lì, dai. Ma tu sei prima per noi. Senti, io vorrei tornare a te e che soprattutto al tuo nuovo CD. A proposito di confronti, tu, dovendo scegliere con chi confrontarti, qui sta la sorpresa, non hai scelto un confronto qualsiasi, no? Ma hai scelto di confrontarti con altro che prima della classe, possiamo dire mito? Una fuori classe. Una fuori classe. All'improvviso, non so perché, non lo so perché. All'improvviso, all'improvviso, sarà perché mi hai guardato come nessuno mi ha guardato mai. Mi sento viva all'improvviso per te. Ora. E questa è la voce di Annalisa che si confronta con una fuori classe. Qua non, non possiamo parlare di primi, secondi. Assolutamente, anche perché è scontato. Sì, cioè. Come ti è venuto in mente? Mi verrebbe da chiederti. No, in realtà non è venuto in mente solo a me. Diciamo che è stato più una questione affettiva con questa canzone, perché è stata una canzone che mi ha fatto capire un sacco di cose quando l'ho studiata, quando l'ho imparata e fatta e cantata. Quindi è lì perché è un simbolo di crescita per me. In che senso? Nel senso che quando l'ho fatta mi sono sentita migliorata. Mi sono sentita di aver capito qualche cosa in più che prima mi era sfuggiva. Non conoscevi. Forse avevi dentro, ma avevi bisogno di esplorare. Esatto, sì. Ma quante cose capisce questa ragazza? Sai che leggendo sulla tua biografia tu dici una cantante, un artista, giovane, in gamba, eccetera. No. Cosa andiamo a scoprire? Che ha preso una laurea in fisica. Eh sì, è andata così. E questo ci ha completamente spiazzati, sì. Perché scusami, una che fa musica, che canta, al massimo si laurea in lettere moderne oppure in lingue. Come invece riesci a tenere insieme due mondi che sembrano diversi, o invece siamo noi che non vediamo il legame giusto, questo fil rouge? Ma allora, intanto io ho fatto fisica perché mi piace, sono un'appassionata delle scienze in generale, mi piacevano già quando andavo a scuola, alle superiori, quindi ho scelto quello perché mi piaceva. In verità ho sempre voluto fare la cantante. Io ho sempre studiato musica, già da molto prima, però sapendo che sarebbe stata dura, ho portato avanti anche un'altra mia passione, un po' più piccola, ma che c'è. E, non so se c'è un filo conduttore, però al contrario di quello che si può pensare, ci sono un sacco di musicisti che fanno fisica. Sì. Davvero, c'è pieno. Pienissimo, nella mia facoltà ce n'era un sacco. Che fanno, quindi hanno questo fisici e musicisti. Forse per l'acustica, le onde, la propagazione. Vedi che queste cose qua, vedi. Senti, ma i tuoi genitori ti hanno verso quale pendevano più per la fisica? Ti volevano più un'analisa fisica o un'analisa cantante? Come ti hanno aiutato anche a gestire, no? E ad andare avanti, a coltivare questa passione? Tu stessa hai detto, beh, la cantante è difficile, e giustamente ho cercato di seguire una mia attitudine, un mio talento, un mio interesse, che però l'hai portata avanti. E laurearsi in fisica non è una passeggiatina, eh? No, per niente, anzi, ho fatto molta fatica. Ma i miei mi hanno sempre appoggiato in tutto quello che volevo fare, anche perché comunque si sono resi conto che c'era la predisposizione e la passione, quella vera, però non quella che ti fa aspettare le cose senza fare nulla, ecco. La passione però anche per guadagnarsele le cose, no? Quindi io ho sempre studiato musica e loro mi hanno appoggiato, devo dire. L'unica cosa è che hanno spinto perché io comunque portassi avanti gli studi, perché ovviamente ci tenevano che io non rimanessi lì così senza sapere che cosa fare se la musica fosse andata male, questo sì. E direi che sei Nicoletta, che credo stiamo scoprendo una delle caratteristiche che rendono così forti i secondi rispetto ai primi, forse, perché direi che la parola chiave è versatilità, è proprio quella che rende il secondo migliore del primo. Se ci pensi, il primo deve sai essere... Sai che io sono seconda, eh? E io mi considero uguale, mai stato il primo della classe. Sì. Però penso proprio che il primo deve essere così perfetto, così monolitico, così monocorde sulla sua prestazione, quasi un po' ossessivo, no? Rispetto alle... Che ha davvero pochi spazi di esplorazione al di fuori di quella cosa che lo rende il primo di tutti. E forse il secondo ha la possibilità di muoversi, spaziare. Quindi tu hai dato un suggerimento prezioso ai nostri ascoltatori, che sono invitati a scriverci, a mandarci una mail a esserebenessere@radio24.it. Annalisa sceglierà le storie, le vostre storie di secondità. Alberto la chiama così. Alberto, esiste questa parola? È un neologismo. Credo che ce la siamo proprio inventati per noi qua. Ma che spiega bene un po' il tema che vogliamo affrontare oggi insieme a voi. E quattro di voi riceveranno a casa proprio il CD autografato, e voglio dire, da Annalisa. Quindi scatenatevi, scrivetevi, non rimanete secondi, perché qua quattro di voi saranno scelti, attivatevi. Adesso noi andiamo a sentire che cosa sta succedendo sui mercati, poi andiamo a sentire il meteo e poi di nuovo insieme con una seconda parte di trasmissione. Annalisa resta con noi, ma ne scopriremo ancora delle belle. A tra poco. Essere e benessere. E siamo tornati insieme, in linea con noi una grande sorpresa, Jeff Kinney, autore del Diario di una schiappa, il cui protagonista è uno degli eroi più amati dai ragazzini di tutto il mondo. Ciao Jeff, grazie per essere con noi. Hello, thank you, I'm so excited to be here. Vi facciamo, allora andiamo a ascoltare un breve estratto che abbiamo preso proprio dall'ultimo capitolo del Diario di una schiappa, Vita da cani. Mamma dice che alla mia età non è naturale stare in casa quando c'è il sole. Le ho detto che lo faccio per proteggere la pelle, così non avrò tutte quelle rughe quando sarò vecchio come lei. Ma non mi dà retta. Mamma insiste sempre per farmi fare qualcosa fuori, tipo andare in piscina. Ma ho passato i primi giorni delle vacanze in piscina con Rowley e non è andata molto bene. La famiglia di Rowley è socia di un club e quando è finita la scuola abbiamo cominciato ad andare in piscina tutti i giorni. Poi abbiamo commesso l'errore di invitare Trisha, una ragazza che ha appena traslocato dalle nostre parti. Mi sembrava gentile da parte nostra farle fare un po' di quella bella vita. Ma dopo neanche 5 minuti ha conosciuto un bagnino e si è completamente dimenticata che eravamo stati noi a invitarla. Così ho imparato una nuova lezione. C'è gente che non ci pensa due volte a usarti, specialmente se c'è di mezzo un club con piscina. Comunque Rowley e io stavamo molto meglio senza ragazze intorno. Al momento siamo scapoli tutti e due, e d'estate è meglio essere liberi. Qualche giorno fa ho notato che la qualità del servizio stava peggiorando. A volte la temperatura della sauna era un po' troppo calda, e una volta il cameriere della piscina si è scordato di mettermi l'ombrellino nel frappè. Mi sono lamentato col papà di Rowley, ma per qualche ragione lui non ha detto niente al direttore. Il che è strano. Se fossi io a versare la quota associativa, vorrei un servizio all'altezza di quel che pago. Comunque, dopo qualche giorno, Rowley mi ha detto che non poteva più invitarmi in piscina e a me va benissimo. Sto molto meglio in casa con il condizionatore, dove quando bevo non devo controllare se mi è entrata un'ape nella lattina. Jeff, ma quanto c'è di te in Greg. Dici la verità. Greg è una versione esagerata della mia vita. Ha delle caratteristiche che sono le mie, però poi ha anche dei difetti che sono un'esagerazione. 37 milioni di copie vendute, indubbiamente un grandissimo successo editoriale. Perché Greg piace così tanto? Ci sono tantissimi eroi straordinari, ma quello che piace di lui è che abbia anche dei difetti. Forse i nostri ascoltatori non lo sanno, ma Jeff Kinney, scrivendo la storia di un ragazzo che è un po' una schiappa, è in realtà diventato uno dei 100 personaggi più influenti del mondo, secondo Time. E qua credo non è che c'è un po' un conflitto di termini e di interessi, cioè come fa una persona che fondamentalmente racconta la storia di un perdente a diventare un vincente assoluto? E sempre, forse i nostri ascoltatori non lo sanno, ma La Schiappa ha fatto fuori nella classifica dei libri più venduti addirittura Dan Brown. Credo che l'influenza più positiva che io possa avere in generale sul mondo è proprio quella di portare i ragazzi alla lettura, di farli avvicinare alla lettura e possibilmente di farli diventare lettori nel corso di tutta la loro vita. Jeff, il tuo libro viene utilizzato come strumento di prevenzione del bullismo. Secondo te qual è la sua forza antibullo? Innanzitutto credo che questi libri siano in grado di dare maggiore voce e forza a chi la voce di solito non ce l'ha. E poi ho notato, soprattutto nei miei tour negli Stati Uniti, che i ragazzini tendono ad avere la cultura dell'omertà e del silenzio nei confronti del bullismo. Per cui tendono a proteggere eventuali loro compagni, che sono dei bulli. Quindi il mio obiettivo, quando vado da loro, è di spezzare questo loro silenzio. Grazie Jeff, è stato un vero piacere averti con noi. Un abbraccio, alla prossima. Thank you, grazie. Annalisa, abbiamo appena sentito l'intervista a Jeff Kinney, autore della saga Il diario di una schiappa, che tra l'altro è scrittore che ha celebrato le storie di un adolescente che si sente sempre un po' fuori, no? Da tutto. E per questo direi che sarebbe bello ascoltare forse la canzone più in tema del tuo nuovo CD. Si intitola appunto Fuori. Fuori è tutto uguale a come tu stai dentro. Il sole esplode con i desideri, il vento che viene ad asciugare le tue lacrime arrabbiate. Fuori ti vedo bene quando tu stai bene. Fuori, Annalisa, ma a te è capitato, capita a tutti, immagino che sia capitato anche a te, di sentirti in alcune occasioni per il tuo modo di fare, di pensare, di vestirti, di essere un po' fuori? Sì, a me capita molto spesso, ma non tanto perché mi sento, cioè non tanto perché, non so, magari per il modo di pensare, no, mi capita spesso perché io arrivo sempre dopo, non so come dire, cioè, arrivo sempre in ritardo, siccome rifletto molto, certe volte rimango fissato, quando seguo il filo dei discorsi, mi fisso su un pezzo e perdo tutto quello che viene dopo, e quindi mi sento fuori in certe occasioni, sì. Alberto, si parla molto di intelligenza emotiva. E sai che questa è proprio una delle cose che ha rovinato la vecchia psicologia. Cioè tutti pensavano che tu per avere successo nella vita, per funzionare bene, dovevi avere un altissimo quoziente intellettivo, essere veramente bravo a scuola, il primo della classe. Poi è arrivato qualcuno, Daniel Goleman, che si è reso conto di una cosa. Che sarà quelli stato che, un secondo lui. Che vivevano più infelici erano proprio i primi della classe, magari altissimamente prestazionali, bravissimi nel loro settore, ma poi si perdevano tutto il resto, cioè il bello della vita. E lì lui ha avuto un'intuizione, ha detto invece che il QI, qua, cioè il quoziente intellettivo, è importante avere il QE, cioè il quoziente emotivo. E Ecco perché la versatilità di Annalisa probabilmente arriva tanto e la fa muovere molto molto velocemente, perché probabilmente in un pizzico di imperfetta perfezione sta il segreto poi della felicità, almeno così dice Daniel Goleman. Hai probabilmente più capacità di stare concentrato non solo su quello che stai facendo, la performance, ma anche su come lo stai facendo, cioè l'espressività. Saper tenere una posizione con tranquillità e con calma vuol dire non essere in balia delle emozioni che si accendono e che poi ti trasportano dove vogliono loro. Ti è venuto naturale? Sto pensando all'esperienza di Amici, in cui insomma la competizione è abbastanza il tratto distintivo. Sì, sicuramente. Io sì, mi è venuto naturale perché comunque io sono così e non sono capace a fare in un altro modo. Cioè il mio motto è proprio con calma e cioè, pensiamoci un attimo. Cioè, sono sempre stata così e non sono neanche particolarmente competitiva. Io cerco sempre di pensare al mio percorso, quindi, e di non guardare quello degli altri, perché sennò ci sarà sempre qualche cosa che ti darà motivo di malessere, quindi bisogna guardare il proprio percorso. Ai ragazzi proprio giovani come te che ci stanno seguendo e che si sentono sempre un po' sempre di corsa, come sempre, sai, quelli che non riescono mai a prendere il treno giusto, che arrivano trafelati e vedono che insomma le occasioni continuano a sfuggirgli tra le mani e si sentono anche un pochino affannati perché la società oggi chiede tanto, tu che cosa raccomanderesti? Ma allora, intanto, in ogni caso non bisogna scoraggiarsi, perché bisogna sempre mantenere viva la volontà di fare le cose, questo sempre. E poi, secondo me, un buon modo per mantenere il proprio benessere è quello di parlare di come si sta. Proprio dal punto di vista emotivo, parlarne e raccontare cosa si prova e come si sta è una cosa che aiuta molto. Dare le parole, proprio raccontarsi con le parole, emozioni che albergano dentro di noi, che a volte le vogliamo cacciare, invece parliamoci. Adesso andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade e poi continuiamo a parlare con la nostra, dico così, Annalisa, grazie. Essere e benessere. E non c'è niente che ora tu possa cercare, che ora tu possa subire, ora che tu sei qui accanto a me. Giorno per giorno io mi nutrirò di ogni tuo piccolo gesto. E questa è Giorno per giorno, sempre tratta dal CD Nali di Annalisa, che ci sta un po' facendo una sorta di coaching personale, sì, per noi, giorno per noi. E 3 secondi. Anch'io credo che dentro ci sia proprio un po' in parte la filosofia che ci ha raccontato. E di nuovo ragionavo, il primo della classe è costantemente centrato là sull'evento finale, non vive giorno per giorno, vive in funzione del momento celebrativo, dell'evento, di quando dovrà arrivare primo. E lei invece diceva, io sto lì, a volte addirittura aspetto il quarto d'ora prima per sapere che cosa deve succedere dopo, perché così mi godo l'attimo e anche probabilmente lo gestisco meglio, cioè con l'emozione di quell'istante, non con tutto questo mondo di ansia e... E direi che giorno per giorno si costruisce anche giorno per giorno la propria professionalità, si costruisce giorno per giorno una relazione d'amore o d'amicizia. Insomma, la nostra vita va proprio costruita giorno per giorno, anche il successo, questo strepitoso successo che segna, no? questa fase importante della tua vita, ma tu sai che oggi anche io penso, grazie a programmi come i talent show, molti giovani pensano che da un giorno all'altro si diventi famosi e quindi pensano di acquisire la notorietà quasi, no? Come all'improvviso. Invece è una cosa che si fa giorno per giorno. Assolutamente. Tu l'hai fatta, hai fatto delle tappe e hai seguito anche due strade contemporaneamente. Ecco, io vorrei che approfittare proprio della tua presenza qui per mandare un messaggio. Le cose non si improvvisano, vanno affrontate con serietà, passo dopo passo. Annalisa. Sì, ecco, si possono anche improvvisare, però si rischia magari di bruciare le tappe, di non vivere alcune situazioni nel miglior modo, che quello, il modo magari che più ti gioverebbe. Quindi io sono di questa filosofia, sì, che giorno per giorno ti costruisci una tua maturità, una tua esperienza, e poi le cose vengono, insomma, dalla fatica, anche perché magari si può pensare anche che partecipare ad esempio a un talent come ho fatto io sia un trampolino immediato, che tu vai, partecipi, invece sì. No, cioè, insomma, dura 5 mesi e mezzo, anche di più, e quindi anche solo quello, riuscire ad arrivare fino in fondo, è veramente un bellissimo impegno e una gavetta pazzesca, che per quanti possono dire noi che non è così. Noi abbiamo bisogno di persone che tornino a credere nel valore della gavetta, Alberto. Credo proprio di sì, e comunque proprio perché abbiamo una seconda che è arrivata prima, pur essendo seconda. Sì, poi diciamola tutta. Io poi vorrei capire chi sono i maestri dei secondi che arrivano prima. Se tu dovessi indicare 4 persone della tua vita che ti hanno fatto diventare un po' l'Annalisa che sei in questo momento, chi sono e perché? Chi sono stati i tuoi maestri di vita, e ognuno di loro che genere di insegnamento ti ha? Ma allora, principalmente i miei genitori, quindi mia mamma e mio papà, perché comunque loro sono entrambi professori. Sì. E quindi io questa dedizione comunque a impegnarmi sulle cose l'ho presa da loro. Sì. Cioè il fatto di non aspettarsele, di cercare di prendersele. Di guadagnarsele. Esatto, e l'ho vista da loro perché cioè fin da piccola vedevo loro che non facevano altro che studiare, che continuavano a dare ripetizioni a studiare loro stessi, quindi certo, per me imitare i miei genitori voleva dire fare quello. E poi ci sono, non lo so, ci sono dei professori che ho avuto comunque, che anche loro mi hanno dato un sacco di consigli, persone con le quali ho avuto la fortuna di suonare. E anche dal punto di vista, che anche dal punto di vista artistico mi hanno insegnato molto insomma, a dare peso alle parole, a tutte le cose che dici, ai messaggi che porti quando canti e quando suoni, e quello è molto importante. Senti, che cosa ti colpisce di più di una persona quando la incontri per la prima volta? Quando parli un po' con lei, cioè proprio in un'occasione come può essere, non so, un incontro come oggi ci siamo incontrati, abbiamo chiacchierato un po' con Alberto, con me. Che cosa tu sei una grande osservatrice, infatti io vedo che io hai questi occhioni magnifici e me li sento un po' puntati piacevolmente addosso. Che cosa ti affascina, che cosa ti dà sicurezza in una persona, come le guardi le persone, che cosa ti aspetti da loro, cosa fai per capirle, per entrare in sintonia con loro? Ma io guardo, noto moltissimo la gestualità delle persone e le espressioni, cioè si capisce quando una persona è ben disposta o non lo è, o non ha voglia di fare quello che sta facendo, vorrebbe essere da un'altra parte, si capisce, almeno io penso di capirlo, quindi noto molto questo. E poi la fisicità viene dopo, cioè, per prima cosa mi capita di notare la gestualità e le espressioni del viso. Senti, io so che i tuoi fan si aspettano che tu li saluti in un modo, non lo so, a modo tuo, al modo di Annalisa, ti scrivono, sono in tantissimi. Tu, tra l'altro, voglio ricordare che li incontri i fan, ci sono degli appuntamenti a Milano, Brescia, Roma, tutto su Facebook, vero? Sì, sì, sì, tutto su Facebook. E allora questi fan che aspettano di incontrarti, io devo dire proprio sono fortunata di averti avuto un'oretta tutta per noi. Che cosa vuoi dire? Niente, magari dico la pagina Facebook, devono cercare Annalisa Scarrone, è il primo contatto che esce fuori, ci sono circa tra i 40 e i 50 mila iscritti, quindi è quella la pagina dove devono andare, scrivo anche io, anzi rispondo lì anche alle lettere che magari mi portano, mi è capitato magari lì così, quando presento il disco, quando incontro i fan, rispondo poi lì. E quindi piano, scrivete, piano. Scrivete, posso dire Annalisa risponde, e scrivete anche a esserebenessere@radio24.it la vostra storia, Alberto me la fa dire così, di secondità, un neologismo coniato da Alberto Pelai proprio in occasione di Annalisa. 4 CD vi aspettano, Annalisa li autografa e li faremo ricevere a casa. Annalisa, un abbraccio. Grazie. A voi, grazie. Alberto, alla prossima. Alla prossima. Buona giornata a voi da Nicoletta Carbone. Ed Annalisa. Ed Alberto Pellai. Voilà. Essere e benessere.